Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, novembre alle porte, tempo di allacciare le scarpette, primo appuntamento New York dal ponte di Verrazzano al Central Park. A sea of bodies embarking on what would turn out to be one of the most grueling marathons ever. Their route leads through the boroughs of Brooklyn and Queens. E mancano pochi giorni alla maratona di New York, che vedrà gli appassionati della corsa misurarsi per dare vita ad uno degli spettacoli più belli al mondo. Ma non si corre solo a New York, il calendario è molto fitto. Il 28 novembre si correrà la 27esima edizione della maratona di Firenze, che presenterà un nuovo tracciato che si annuncia molto più veloce e con un dislivello fra partenza e arriva di circa 40 metri, proprio nel pieno rispetto delle regole della IAF. Ci sarà anche il nostro Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, uno staff di Radio 24, li riconoscerete dalla maglietta. Intanto potete cercarli, salutarli, abbracciarli, fare il tifo per loro, se ci sarete naturalmente. Ma qui con me in studio c'è naturalmente il nostro Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno dottor Confalonieri, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti. E in linea con noi abbiamo il primo italiano a correre alla maratona di New York nel 1978, ma ha anche due partecipazioni olimpiche, a Mosca nell'80, a Los Angeles nell'84, ed ora è direttore della rivista Runner World, Marco Marchei. Ciao Marco. Buongiorno, ciao Nicoletta. Non finivo più a presentarti, quanto hai corso. Troppo buona. Senti Marco, facciamo un po' un confronto tra queste due maratone, che per un italiano è come giocare a casa e fuori casa. Partiamo da quella di Firenze, che quest'anno sarà un po' più nuova rispetto alle passate edizioni. In realtà è un po', per l'italiano è un po' come giocare in casa e in casa, nel senso che a Firenze si è assolutamente in casa, ma anche a New York si è abbastanza in casa, perché casina. Sono così tanti gli italiani che vanno e anche quelli che sono sul percorso che insomma uno si sente un po' a casa propria. La maratona di Firenze quest'anno, come dicevi, si è rinnovata molto, cercando di smussare, di rendere la gara, se vogliamo, un po' meno faticosa, un po' più scorrevole, ma anche di eliminare una piccola anomalia, tu l'hai precisato, quei metri in più che creavano qualche problema per la IAF, per la Federazione Internazionale, non può esserci più di un chilometro in discesa, più di un chilometro, più di un metro al chilometro. Le maratone di 42 chilometri, quindi 42 metri, adesso finalmente Firenze è in linea, si parte da Piazzale Michelangelo, appena sotto si parte quindi se vogliamo in discesa, e poi si scende nella città. Il vecchio percorso aveva la partenza in salita, c'era tutto un primo tratto, i primi chilometri abbastanza impegnativi. Da quest'anno la gara è molto più scorrevole. Ho parlato recentemente con Fulvio Massini, che è il direttore di gara di Firenze, mi diceva è rimasto soltanto un cavalcavia lungo non più di 100 metri, quindi 100 metri a salire e poi 100 metri a scendere. Quindi questo per quanto riguarda Firenze. Il percorso di New York è un po' decisamente più impegnativo, però volendo fare il vero confronto tra le due città, insomma, una ha il fascino della metropoli, New York, della megalopoli, e l'altra, se vogliamo, è il fascino dell'arte. Senti, leggevo tra l'altro alcune notizie che sono andata a ripescare in alcuni articoli di Runner World, che nella maratona di New York nel 2009 sono arrivati in 43.660 al traguardo e solo 537 si sono ritirati. Sì, noi avevamo un po' rimarcato questa cosa, il fatto che ci fossero così pochi ritirati, perché in Italia c'è la tendenza a gonfiare un po' i numeri da parte dei nostri organizzatori, questa è una sorta di provincialismo, gonfiare i numeri alla partenza e poi alla fine scopri che i classificati sono molti meno di quelli che teoricamente dovrebbero essere partiti. A New York sono molto rigorosi, su 43.000 erotti partenti, 537 ritirati sono veramente pochissimi, quindi una percentuale minima. D'altra parte bisogna tener conto di una cosa anche, Nicoletta, che se vai a New York a correre la maratona, che tu arrivi dal New Jersey o da Palermo o da Bolzano, insomma difficilmente ti ritirerai, diventa difficoltoso poi comunque arrivare al traguardo, ma insomma io ritengo che sia molto poco, no? Sì, insomma una volta che uno va lì alla fine la non finisce. Si ritira. non si ritira. E arriva camminando, ma arriva in fondo. E infatti io sono certa che non si ritirerà Maurizio Lupi, che è in linea con noi, vicepresidente della Camera dei Deputati e promotore del Montecitorio Running Club. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, non mi sono mai ritirato, è la sesta, ha ragione la persona che parlava prima di me. È Marco Marchei, perché non l'abbiamo presa, che Marco era già stato presentato. Sì. Lo saluto, per me è ormai la sesta maratona di New York. La prima ho iniziato con un tempo di 4 ore e 48 e alla fine ho camminato, ma alla fine vuoi arrivare a finirla. L'ultima l'anno scorso, 3 ore e 48, invece l'ho fatta di corsa, ma bravo, non ho visto però nessuno che si ritira. Dottor Confalonieri, mi sembra che vada di corsa. 3 ore e 48 è già un tempo dignitoso, diciamo che come dignitoso può porsi come obiettivo sotto le 3 ore e 30, che rappresentano un primo confine significativo, magari nei prossimi anni. Non necessariamente quest'anno, è una sfida. Ma lei la maratona è una grande sfida. Per esempio, io quest'anno vorrei finire in 3 ore e 40, ma la sfida più bella che abbiamo messo un po' in piedi con questa passione personale mia, ma anche dei tanti amici che ho iniziato alla corsa, in particolare alla maratona, è quella appunto di, da una parte, di chiuderla. La maratona è importante finirla, uno può finirla con 5 ore, con 4 ore, appunto con 3 ore e 30, ma è l'idea di prepararsi, è l'idea del sacrificio, è l'idea di conoscere una meravigliosa città come New York, con la gente con milioni di persone che ti fanno feste, che ti incitano anche se sei l'ultimo ad arrivare, e per noi poi è l'idea anche di correre, testimoniando che, a proposito della vostra trasmissione, che correre, se seguiti e fatto in maniera intelligente, fa bene alla salute, ma si può anche aiutare qualcuno che sta meno bene di noi. Infatti, voi aiuterete l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive o Relazionale, l'ANFAS, vero, di Teramo? Sì, l'ANFAS di Teramo. L'anno scorso è stata la prima esperienza, l'anno scorso abbiamo aiutato una fondazione sempre dell'Abruzzo, perché abbiamo un po' adottato questa regione dopo il terremoto dell'Aquila, erano i ragazzi della fondazione Il Cireneo, i ragazzi autistici, e devo dire che alla fine abbiamo raccolto, tra la comunità italoamericana, gli sponsor, i parlamentari che hanno scommesso su di noi, l'anno scorso 300.000 euro. Quest'anno abbiamo individuato questa esperienza meravigliosa che ci è stata segnalata ovviamente alla Camera dei Deputati da parte delle strutture locali, e sono gli amici dell'ANFAS di Teramo che però noi vogliamo aiutare una iniziativa molto specifica. Loro stanno realizzando questa casa dimora dopo di noi, cioè abbiamo scoperto chi vive il dramma del dramma della morte dei genitori, questi ragazzi, i genitori che muoiono hanno bisogno di avere una famiglia che le accoglie, di avere appunto una casa, e quindi noi aiutiamo e raccogliamo le risorse percorrendo per mantenere la retta di questi 20 ragazzi che sono accolti nella casa dimora dell'ANFAS di Teramo. Mi piace. Senta, ma lei quanto si allena? Si allena tutti i giorni? Lei fa le cose per bene, 3 volte alla settimana? Esatto, non ce la faccio allenarmi tutti i giorni, e questo è anche forse una ragione che il tempo è 3 ore 40, 48 e non minore. Io mi alleno 3 volte alla settimana, il sabato e la domenica in un posto meraviglioso. Io sono di Milano, abito nella periferia di Milano, al quartiere Abaggio, e abbiamo un parco bellissimo che è il Parco delle Cave, che è il recupero di una discarica, di una vecchia discarica e di una vecchia cava, e lì faccio il sabato e la domenica. E a Roma invece la mattina molto presto, una volta a Villa Borghese, usciamo presto, abbiamo delle tabelle, quindi poi ci seguiamo queste tabelle. Senta, ma di questo gruppetto che correrà insieme a lei, di chi, secondo lei, chi è il più preparato? Dunque, insomma, ci sarà un po' di rivalità. Sono stato battuto da un collega leghista che è molto bravo, che è l'onorevole Caparin. Lui ha fatto 3 ore 28. Quest'anno, siccome ogni anno cambia, eccetera, io ho il tempo migliore teoricamente sulla carta, ma c'è un collega del Partito Democratico che mi ha lanciato la sfida, che è l'onorevole Gozzi, che l'anno scorso l'ha finita sopra le 4 ore, che vorrebbe battermi, e si è messo, c'è anche un gioco che noi facciamo tra i colleghi parlamentari, ma abbiamo distribuito una sorta di libretto degli assegni, dove ognuno dei colleghi parlamentari scommette sugli 11 partecipanti quanto faranno, se ce la faranno a finire, se miglioreranno. E ovviamente questo, la scommessa è l'impegno, certo. È un gioco a versare quella cifra che poi andrà all'Anfas. All'Anfas. E quindi ognuno di noi è impegnato a finire, perché sa che se per esempio io miglioro, io le racconto una cosa bella, perché l'anno scorso io ho un carissimo amico che è il sottosegretario, l'onorevole Casero, l'anno scorso aveva scommesso 500 euro su di me, nel senso che se avessi fatto 3,40 li pagava lui, o se facevo sopra i 3,40 dovevo pagarli io. Ho perso perché ho fatto 3,48 e ho dato io i 500 euro all'associazione. Però è anche uno stimolo, sappiamo, certo, che abbiamo anche un compito, farcela, perché se finiamo possiamo fare del bene. Questa è la cosa bella, insomma. Grazie. Allora, si può dire in bocca al lupo, Marco? Si può dire a un maratonete in bocca al lupo? Assolutamente, o no? Sì, io continuo a dire anche buone corse, anche se tutti mi guardano un po' così, è come dire buona pesca. Sì. Ricordatevi che li chiamo lupi, quindi... Infatti, per questo io, lupi e lupi, comunque insomma state correte in gruppo. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti buona voi. Buona New grazie. York. Basta, come si diventa però, mi scrive un'ascoltatrice, come ci si prepara alla maratona? Ormai a quella di New York non ci si può più preparare, no. Ormai no? Diciamo che per chi comincia ci vuole almeno un anno per preparare una maratona. La disponibilità dell'onorevole Lupi è la minima, 3 volte a settimana direi il minimo per preparare una maratona da chiudere bene e senza arrecare danni al proprio organismo. Un anno, 3 allenamenti a settimana sono sicuramente sufficienti, ovviamente affidandoci a un preparatore, a un esperto che ci dica come, quanto e a quale intensità correre in questi 3 allenamenti settimanali. Allora, Ida da Torino ci ricorda che anche c'è la maratona di Torino il 14 di novembre, insieme c'è anche la Stra Torino e la Junior Marathon per i più piccoli. Marco, scusa, ti volevo chiedere, ci sono un calendario delle maratone molto fitte, ma quante maratone può fare una persona ben allenata in un anno? Bella domanda. In Italia si è diffusa l'idea che si possano correre maratone tutte le settimane, perché spesso viene dato spazio, comunque un po' la ribalta, a personaggi che effettivamente riescono ad essere sulla breccia più volte nel corso dell'anno. C'è gente che corre una maratona anche ogni mese. Qualche anno fa, nel 2002, c'è stata una coppia Brindisi che ha marito e moglie che hanno corso 100 maratone a testa in un anno. Ovviamente è un'esagerazione, come potete immaginare bisogna dedicare molto tempo e molte energie. Io ritengo che si debba ritornare, mi fa piacere che Confalonieri sia già intervenuto a spiegare che insomma la maratona non si può improvvisare, ci vuole un po' di tempo per consolidare, per riuscire a stare sulle gambe, come si dice in gergo. Adesso tutti quanti improvvisano, invece ci vuole almeno un anno, così come io ritengo che sia giusto correre non più di un paio di maratone all'anno, come fa Stefano Baldini, come fanno i cosiddetti professionisti, perché comunque per chi si allena poco, per chi ha gli impegni lavorativi o di famiglia nel corso dell'anno, preparare più di una maratona a stagione diventa impegnativo. Io direi una maratona in primavera, una in autunno e siamo contenti, si può insomma, dire toglie il medico di torno. Non si deve strafare, no, perché il dottor Confalonieri ce lo teniamo qua il venerdì, non si deve strafare. Voi però potete fare una cosa molto semplice: oggi noi parliamo, ormai è chiaro, di maratona, 800 24 00 24, chiamateci perché possiamo darvi tanti consigli per chi vuole avvicinarsi alla maratona, quindi passare dalla corsa ad un progetto un pochino più ambizioso. Se invece avete una maratona, un impegno prossimo, può essere Torino, può essere Firenze, le occasioni non mancano e volete dei consigli da Marco Marchei e dal dottor Franco Confalonieri, non avete che da chiamarci, da scriverci al 349-238-6666. Ricordo il nostro profilo Facebook, dottor Confalonieri, le sue domande. Ma la mia domanda è: state per affrontare una maratona? Mi rivolgo proprio a chi andrà a New York, a Torino, a Firenze. Avete dei dubbi sull'alimentazione, su quel piccolo dolorino che è comparso quando non doveva comparire, o sugli allenamenti di verifica subito prima? Chiamateci, siamo qui a vostra disposizione per aiutarvi a superare questo piccolo dubbio che magari rovina il periodo finale di approccio alla maratona. E noi intanto, nell'attesa delle vostre telefonate, 800 24 00 24 ci rinfreschiamo un po' la memoria e facciamo un po' di cronistoria. Il mito vuole che la prima maratona sia stata corsa nel 490 a.C. dal soldato Filippide per annunciare agli ateniesi la vittoria sui persiani di Ciro. In assoluto, la prima maratona è stata corsa ad Atene nel 1896, tanto che può essere a pieno titolo definita la prima Olimpiade dell'era moderna. La distanza curiosa dei 42 km e 195 metri deriva dalla traduzione della distanza di 26 miglia e 380 yards, quella che separava la partenza al castello di Windsor dall'arrivo allo Stadio Olimpico di Londra 1908. Dall'edizione successiva, Olimpiadi di Stoccolma 1912, quella è stata considerata la misura ufficiale della prova di maratona. La prima maratona olimpica aperta alle donne è stata quella di Los Angeles nel 1984. È stata vinta dall'americana Joan Benoit. Il primato del mondo maschile della maratona è dell'etiope Haile Gebrselassie, con 2 ore e 3 minuti e 59 secondi. Il primato femminile è della britannica Paula Radcliffe, di 2 ore, 15 minuti e 25 secondi. Dottor Confalonieri, conta molto il tempo che si dedica all'allenamento, l'avete detto, bisogna andare con calma, con... gradualità. Ma tutti potenzialmente possono diventare maratoneti oppure... Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Dottore, allora non potete tutti? Mettermi in Ligabue così. Anzi, non è questo, è Carboni così a tradimento, proprio una delle mie grandi passioni. No. Ma lei Carboni, tutti i venerdì è qua. Com'è? Va bene. Merito il carbone nella mia vita, va bene. No, dicevo, tutti potenzialmente sì, ci sono delle controindicazioni assolute, che sono ovviamente problematiche gravi a livello cardiovascolare o dismetabolico, che controindicano qualsiasi attività praticata in modo agonistico, o problematiche specifiche a livello strutturale, penso problematiche a livello dei piedi, delle ginocchia, delle anche o della colonna, che impediscano un carico quantitativo come allenamento importante. Se no non ci sono limiti, se non ci sono queste controindicazioni si può preparare una maratona inventandosela anche a 40, 50, 60 anni, ovviamente dandosi il tempo giusto per prepararla, affidandosi ad esperti qualificati e ponendosi obiettivi ragionevoli in termini di tempo. Però direi che per tutti è un'avventura che può essere vissuta. Ad esempio Giorgio ci scrive: se correre con l'ernia è possibile, se sì, che scarpe e tipo di preparazione fare? Beh, è un po' generico, però se c'è di fatto un'ernia a livello di scale, qui della colonna, direi che è meglio prima risolvere o stabilizzare questo problema e poi affrontare la preparazione. Passerei la parola a Marco, perché Marco, voi comunque da sempre accompagnate i vostri lettori ad un buon allenamento, ma io sto guardando l'ora, sono le 11:29, siamo già di corsissima. Marco, stai lì perché noi abbiamo i mercati, il meteo e poi di nuovo torniamo insieme a parlare di maratona. La passione va di corsa, Marco. Voi accompagnate i vostri lettori anche nella preparazione alle maratone. Allora, ai nostri ascoltatori che stanno pensando alla maratona di Firenze, tu che consigli daresti? Beh, oggi ho pochi consigli da dare loro, perché sarebbe troppo tardi per cominciare, poi forse non avrebbero trovato neanche il pettorale arrivati ad oggi. E quelli che si sono, adesso sono, sì, sicuramente... quelli che sono già iscritti naturalmente. Esatto, adesso sono decisamente già avanti e a questo punto sono dei corridori molto evoluti e allora staranno facendo gli allenamenti di rifinitura, quelli che saranno già alla fine dei lunghissimi, cioè quegli allenamenti che consentiranno loro di rimanere sulle gambe come si dice, per tutta la gara, oppure se invece l'intento è soltanto quello di arrivare al traguardo è quello di continuare a correre con continuità, magari incentivando, aumentando un'uscita settimanale. Ripeto, mi sto rivolgendo soltanto a quelli che in qualche maniera vogliono arrivare in fondo, non hanno obiettivi cronometrici particolari, e rallentare un po' l'ultima settimana, ovviamente. Dottor Confalonieri. Ma intanto concordo completamente con quanto detto da Marco. Se c'è un problema che hanno tutti gli amatori in Italia, non solo i maratonetti, è quello di non riposare abbastanza prima dell'allenamento importante. Nella fase finale della preparazione il riposo è il miglior allenamento possibile. E poi, da un punto di vista medico, consiglierei da un lato di curare molto l'alimentazione, quindi stare attenti a non fare cose strane, stare attenti a garantirsi un adeguato apporto in carboidrati da una parte e in proteine dall'altra. E infine, in questa fase, magari pensare a brevissimo, cioè la prossima settimana e non dopo, di fare la vaccinazione antinfluenzale, per evitare magari che una banale influenza proprio a pochi giorni dalla maratona rovini un anno di preparazione. Comunque un buon allenamento, se abbiamo fatto le cose per bene... A questo punto dobbiamo riposarci in modo che venga fuori tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Però prepararsi alla maratona significa prepararsi anche non solo a livello muscolare quindi resistenza, ma anche a livello di testa. Per questo io ho chiesto aiuto al professor Pietro Trabucchi, psicologo dello sport, professore all'Università di Verona in psicologia dello sport e autore di Resisto, dunque sono Corbacce di Tore. Professor Trabucchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei Nicoletta. Grazie a tutti, sì. E anche ai due amici che sono in sala, Franco e Marco Marchei, che conosco da tanti anni. Una bella squadra. Senta, professor Trabucchi, allora, quali sono in genere i consigli che lei si sente di dare a chi si è allenato e ha deciso di partecipare ad una maratona? Il problema, cioè l'allenamento muscolare di resistenza l'abbiamo fatto, ma la testa non è staccata naturalmente dal resto del corpo, anche se ultimamente sembrerebbe di sì, ma chiudo velocemente la parentesi, io non so più. Torniamo alla maratona, non ci resta che correre, va. Allora, andiamo di testa, professor Trabucchi. Sì, allora io credo che il fascino e la particolarità della maratona sia il fatto che, anche se noi strutturalmente, da un punto di vista genetico, come i nostri avi, in realtà siamo fatti per correre tanto, tantissimo, molto di più dei 42 chilometri della maratona, di fatto i nostri antenati non la correvano mai questa distanza per fare un record, per fare un tempo. La correvano con altri tipi di esigenze, sì. E quindi in un certo senso noi ci scontriamo col fatto che la benzina che viene utilizzata per ultimare il percorso della maratona è la benzina super del nostro organismo, che è limitata, il glicogeno è stoccato in maniera limitata nel nostro fegato e nelle nostre fibre muscolari, e quindi non ne abbiamo abbastanza, dobbiamo, sì. A un certo punto andiamo in crisi, e credo che sia un po' questo il fascino della maratona, superare questa grande fatica che si incontra. Per alcuni è un incontro che avviene per la prima volta, uno, prima abbiamo sentito l'onorevole Lupi o persone che hanno un mestiere non solo il politico ma di tipo sedentario, magari la fatica non sono abituati e una fatica del genere non la incontrano mai, sì. E quindi credo che dal punto di vista mentale il lavoro stia proprio nel venire a patti con queste sensazioni che ci veicola il corpo, che diciamo diventa uno sconosciuto, non lo riconosciamo più, lo controlliamo di meno, quindi sta nell'accettare questo tipo di... E questo non lo si fa, io sono d'accordo con quello che hanno detto sia Marco che Franco, c'è questa tendenza a improvvisare, ma in realtà l'allenamento non ha solo una funzione di preparazione, di adattamento del fisico, ma anche all'esperienza della grande fatica, all'esperienza del disagio che la maratona comporta. Andrei a sentire alcuni dei nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. Luca, dalla provincia di Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda al professore. Sì. Confalonieri, cioè volevo chiedergli un aiuto su come poter pianificare un allenamento in previsione di una maratona anche volendola fare verso marzo-aprile, ecco, tenendo conto di questi 4-5-6 mesi a disposizione, come poter organizzare proprio un allenamento in previsione appunto di questa maratona. Consideri che io ho già corso diverse mezze maratone, per cui insomma sono neofita, però non del tutto. Insomma, è un mezzo maratoneta, insomma, Luca. Molto sinteticamente, io direi, da qua a Natale potrebbe lavorare sulla resistenza di base, e facendo lavori lunghi o lunghissimi e utilizzando anche il ciclismo e il nuoto come attività aerobica alternativa alla corsa per non sovraccaricare muscoli ed articolazioni. Poi da gennaio e febbraio potrebbero essere dedicati ai lavori più specifici, quindi ai lavori sul ritmo gara e ai lavori che vanno a riprodurre le situazioni metaboliche di fatica che Luca potrà trovare in gara, e infine marzo-aprile appunto ad assimilare tutto quanto fatto, a riposare, a prepararsi mentalmente e fisicamente ad affrontare la prova. A proposito di preparazione, per chi ha già deciso di partecipare, quindi si è già iscritto alla Maratona di Firenze, dato che Radio 24 è la radio ufficiale della Maratona di Firenze, parteciperà Cruciani con uno staff, con un gruppetto di Radio 24, il dottor Confalonieri e gli esperti della società Start Performance sono a disposizione degli ascoltatori di Radio 24, che potranno inviare via mail, sul profilo Facebook, penso sufficiente così, ne avete già due canali, le loro domande riguardo all'allenamento, a problemi di salute, o non so, il dolorino, magari il fiato corto, insomma quello che vi sentite, come alimentarsi voi, nell'ultimo periodo, e anche periodo, l'alimentazione dell'ultimo periodo, per cui abbiamo un'equipe di esperti che vi segue in questo mese, naturalmente per chi è già preparato e ha già deciso di partecipare. Potete contattarli, riceverete prontamente risposte. Penso che anche Mario dalla provincia di Bari voglia magari una risposta a un quesito. Mario, buongiorno. Sì, salve a tutti. Senta, io devo accingermi a partecipare alla maratona di New York. Sono abbastanza preparato, però sì, dovendo per problemi logistici svegliarmi molto presto e quindi aspettare lì davanti alla partenza per, presumo, un paio d'ore fermo, vorrei sapere come alimentarmi, ecco. Mm. È la prima, la colazione, Mario, della mattina. La colazione della mattina a New York. Marco, tu che ti ricordi ancora che cosa hai mangiato quando hai corso come primo italiano alla maratona a New York? Formellata, allora era una vita fa, insomma, si andava. Come una vita fa, dai. 1978 è una. Sono generazioni in mezzo, ma dicevo, allora si era molto sul semplice. Io dico che ancora oggi si potrebbe andare su un'alimentazione di questo tipo. Io credo però, l'ha detto prima Confalonieri, che non si debbano cambiare abitudini, per cui vale la pena di mantenere quello che uno è abituato a fare. Ovviamente vanno un po' privilegiati i carboidrati quella mattina. Alla partenza della maratona di New York c'è un villaggio, una vera e propria città in cui i maratoneti possono alimentarsi. Ci sono dei banchi, dei gazebo con bevande, cibi di ogni tipo, quindi lui non avrà nessuna difficoltà a trovare quello che, anche se sia negli Stati Uniti e quindi non sia in Italia, l'alimentazione è leggermente diversa, a trovare quello che gli sarà necessario per poter correre la gara. Allora noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme per i consigli dell'ultimo minuto. Dottor Confalonieri, quindi alimentazione anche proprio la mattina quando siamo lì, che sì, siete, io vorrei aggiungere due consigli. Il primo, l'alimentazione corretta parte dalla sera prima, quindi fondamentale durante la cena precedente la gara fare un pranzo, una cena completa appunto con i carboidrati ma anche le proteine che avremo tempo di metabolizzare e di storare appunto, di mettere nei depositi. E poi una colazione, va benissimo ancora la marmellata di cui parlava Marchè, se siamo abituati, con le fette biscottate, e poi una piccola ricarica di carboidrati sfruttando le maltodestrine liquido solide presenti al villaggio subito prima di partire. Allora il dottor Confalonieri scappa intanto, sì, però devo lasciare ritorna venerdì, ma soprattutto minuto per tutto questo mese sarà a vostra disposizione insieme agli esperti della società Start Performance per rispondere ai vostri dubbi su allenamento, salute e alimentazione. Esatto. Va bene? Perfetto. Ok. Allora, dottor Confalonieri, grazie per essere stato con noi. Io intanto volevo chiedere al professor Trabucchi quali sono le strategie mentali che si possono mettere in atto per superare quelle difficoltà a cui lei faceva riferimento. Ok, ma le ha dato un compito difficile? No. Sì, abbastanza, perché il difficile sta nel condensare diciamo tutto quello che si potrebbe dire, ma diciamo che sostanzialmente quando noi prestiamo troppa attenzione durante, adesso sto parlando durante la gara, sì, alle sensazioni di fatica, in un certo senso è stato provato sperimentalmente che abbiamo un feedback negativo sulla prestazione. Cioè, sì. Cosa succede? Se io per esempio ho male alle gambe e comincio a concentrarmi su questo male, sono un po' invaso da queste sensazioni, succede che vado in ansia e quest'ansia, siccome noi siamo abituati a considerare le emozioni come immateriali, ma in realtà sono degli stati fisiologici anche, sì. Quest'ansia produce delle sostanze ormonali che in un certo senso acutizzano per esempio la fatica o il disagio che sto provando, perché provate a pensare, un esempio che faccio molto spesso è quello della vasocostrizione periferica, no? Quindi il muscolo è intossicato dalla fatica, avrebbe bisogno di ricevere più ossigeno. Se io comincio a preoccuparmi troppo, certo, ho una reazione di allarme, c'è una vasocostrizione e quindi la situazione peggiora. Allora, di solito la strategia è quella di non tanto di distrarsi, perché si può pensare ad altro, sì, ma il problema è che se io penso ad altro diminuisce l'intervento volontario del mio cervello nel reclutare la muscolatura e quindi non riesco a fare quello che è stato un po' un tema di tutta questa discussione, il personale, no? Sì. Il tempo... Perché rallento? Perché non riesco senza un apporto volontario andare oltre i miei limiti. Allora, credo che quello che è importante è mantenere la concentrazione su alcune ancore, su alcuni fattori. Ad esempio, cioè quindi non tanto pensare troppo al male o alla fatica, ma se sono in un gruppo con altri runner, per esempio... concentrarmi sul tallone della persona che sta davanti a me, piuttosto, cioè, sì, oppure tenere conto degli indicatori del ritmo, quindi questo è più facile per i ciclisti perché hanno un contachilometri sempre davanti agli occhi, no? Invece il maratoneta può prendere il tempo ogni chilometro, però per esempio adesso ci sono dei dispositivi GPS che ti dicono l'andatura momento per momento, no? Una volta non si poteva fare. Questo può essere una strategia. Mi sembrano molto utili i consigli che ci ha dato professor Trabucchi, quindi non concentrarci ad esempio sul dolorino, ma neanche portare la mente altrove, ma lì vicino per non somatizzare troppo. Io vorrei chiedere rapidamente a Marco Marchei. Marco, meglio qual è il ritmo di una maratona? Perché vada bene, andare sparati subito all'inizio, prendere rallentare, c'è uno schema o ciascuno fa come si sente, come il suo allenamento gli suggerisce? Beh, direi che il ritmo può sembrare banale, ma ognuno deve andare al suo ritmo e cercare di essere più regolare possibile. Prima il dottor Canfolonieri diceva appunto che l'allenamento va fatto con un certo criterio e che c'è un periodo nella preparazione in cui bisogna abituarsi al ritmo di gara. Ecco, se uno ha fatto degli allenamenti in cui si è abituato al ritmo di gara, deve seguire quello, ammesso che lo abbia scelto in maniera oculata, sì, e, che certo, non, e che non abbia, non si sia sopravvalutato. E questo dovrebbe consentirgli di arrivare in fondo in maniera assolutamente uniforme. Ovvio che talvolta può capitare che per motivi diversi, condizioni ambientali particolari o semplicemente perché una gara è particolarmente veloce, può capitare che qualcuno possa partire in maniera un po' troppo pimpante, e generalmente questo nella maratona porta a pagare un prezzo pesante prima dell'arrivo. Allora, io ringrazio il professor Pietro Trabucchi, ringrazio Marco Marchei, direttore della rivista Runner World, per essere stati con noi. Spero di sentirli presto. Buona giornata, allora. Grazie. Altrettanto a voi. Grazie. E noi voltiamo decisamente pagina per parlare di una malattia che colpisce una persona ogni 6 secondi nel mondo, indipendentemente dall'età o dal sesso. Parliamo di ictus cerebrale, di cui si celebra oggi, 29 ottobre, la 6ª giornata mondiale. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Luisa Sacchetti, neurologa al Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, e presidente dell'associazione Alice Italia Onlus. Professoressa Sacchetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa, noi abbiamo 2 minuti da giocarci per parlare di questa malattia. Solitamente quando sente parlare di malattie, soprattutto invalidanti come l'ictus, dice non vuole sentirne parlare. Invece non noi mi oggi riguarda. Ecco, non mi riguarda. Invece i numeri purtroppo sono molto alti. Io vorrei che lei ci dicesse quali sono le persone a rischio, dato che l'ictus colpisce, lo ripeto, una persona ogni 6 secondi nel mondo, l'età e il sesso non c'entrano. Che cosa può fare la differenza, professoressa? Sicuramente la differenza la fa l'essere o meno portatori di patologie a rischio. Per esempio, i pazienti cardiopatici che hanno avuto un infarto oppure che hanno una fibrillazione atriale, che è una patologia molto frequente, i pazienti ipertesi, i pazienti che hanno delle placche importanti alle carotidi, che sono le arterie che portano il sangue al cervello, ecco, queste sono le persone più a rischio della popolazione generale. Volevo solo correggere un momento, l'età è un fattore di rischio, più si va avanti con l'età e più siamo a rischio, ma è un fattore di rischio non modificabile. Non modificabile, certo. Senta, professoressa, ci sono anche delle situazioni che spesso noi trascuriamo, ad esempio il TIA, l'attacco ischemico transitorio, che può essere considerato un piccolissimo ictus, però passa e quindi la persona non ci pensa più. Ci aiuta a capire perché e soprattutto a individuare i sintomi in modo che chi l'ha avuto sappia che deve sottoporsi a dei controlli, professoressa? Certamente, allora i sintomi del TIA sono identici ai sintomi dell'ictus, quindi è importante conoscerli. Diciamoli rapidamente, abbiamo 20 secondi, che sono? Improvvisamente la persona perde la forza, una parte del corpo, oppure non riesce più a parlare, oppure gli scompare una parte del campo visivo se non tutto. Questi sintomi possono durare poche ore e allora siamo di fronte a un TIA, o rimanere per sempre siamo di fronte a un ictus. Se hai avuto un TIA ti può venire un ictus con altissima probabilità entro i primi giorni, la prima settimana dopo il TIA. Quindi in presenza dei sintomi andare immediatamente in ospedale e chiedere le cure adeguate. Ringrazio la professoressa Maria Luisa Sacchetti, vi ricordo il sito Alice Italia di Alice Italia Onlus. Buona giornata a voi che ci avete seguito, noi ci sentiamo domani con Questa casa non è un albergo, il consiglio del sale sul nostro sito. Essere e benessere.